In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Questa puntata parla del sistema COP, la riunione annuale dei paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E lo fa con Emanuele Leonardi, sociologo, docente, ricercatore e il collettivo Ecologia Politica. Alla base del sistema di governo del clima basato sulle conferenze delle parti c'è un'idea molto semplice ma molto significativa e in fin dei conti rivoluzionaria per l'epoca, ed è l'idea che profitti e salvaguardia ambientale possano andare di pari passo. Okay? L'idea fondamentale attraversa questa tipologia politica, e quindi sostanzialmente dal 94, anno di fondazione della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici dell'ONU, è che benché il riscaldamento globale sia un fallimento del mercato che storicamente non è stato in grado di tenere nel giusto conto le cosiddette esternalità negative, in questo caso le emissioni di CO2 equivalente, bene, benché sia trattato di fallimento del mercato, solo un'ulteriore ondata di mercatizzazione, che significa solo la creazione di nuovi mercati verdi, potrà efficacemente risolvere il problema. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nasce nel 1992 a Rio de Janeiro con il nome di Summit della Terra. L'obiettivo è quello di prendere decisioni condivise e durature per affrontare il problema dei cambiamenti climatici. Tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2021 si terrà a Milano la Pre-COP 26, la riunione preparatoria che precede ogni conferenza delle parti, in programma quest'anno a Glasgow tra il 31 ottobre e il 12 novembre. La 26esima edizione della conferenza intende concentrarsi su impegni assunti oltre 5 anni fa con l'Accordo di Parigi, su cui molti paesi firmatari sono in ritardo. È un punto, dicevo, quasi rivoluzionario, perché fino a pochi anni prima l'idea posta dal movimento ecologista internazionale era invece che fosse proprio la sete di profitti ad aver determinato la crisi ecologica. Bene, questa idea rivoluzionaria che si è incarnata in almeno un ventennio, in realtà un quarto di secolo di politiche, i due momenti fondamentali rimangono il 1997, il protocollo di Kyoto con i suoi meccanismi flessibili, che sono appunto l'idea che il mercato debba risolvere il cambiamento climatico come problema politico, fino ad arrivare al 2015 agli accordi di Parigi. Ebbene, questa idea si è rivelata però inefficace, almeno stando ai numeri che sono stati pubblicati, che sono di dominio pubblico, perché in ogni momento in cui si è verificata una tensione tra la finalità surrettiziamente ecologica che presiedeva alla creazione di questi mercati e i mezzi effettivamente monetari che erano stati predisposti per conseguire tale finalità, ecco, ogni volta che c'è stata una tensione tra queste due anime dei mercati verdi, diciamo che la prospettiva economicistica ha prevalso, e quindi diciamo che una certa quota di valore è stata creata in questo quarto di secolo, E tuttavia invece la performance ambientale, valutata ovviamente nella diminuzione delle emissioni di CO2 equivalenti, o almeno nell'inversione di tendenza rispetto al tasso di emissione, invece non c'è stata. Quindi non c'è dubbio che si sia trattato di un fallimento. Fin dall'inizio, i principi della Convenzione hanno chiesto un intervento che rispecchiasse le responsabilità comuni ma differenziate delle parti coinvolte. Ma a distanza di 30 anni, il modello COP ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. Infatti, come emerge dal rapporto Oxfam del 2020, 63 milioni di superricchi hanno emesso il 15% di CO2, mentre 3,1 miliardi di persone solo il 7%. Le emissioni annuali sono aumentate del 60%, il 5% della popolazione più ricca ha determinato oltre un terzo di questo aumento, l'1% più ricco ha aumentato la propria quota di emissioni 3 volte di più rispetto al 50% più povero della popolazione. Questo è uno dei dati che fotografano un mondo in cui la metà più povera è costretta a subire l'impatto dello stile di vita insostenibile di pochi milioni di persone. Cosa aspettarci dalla COP26? Ma direi due cose molto molto rapidamente. La prima è che l'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che in teoria richiedeva due cose: di chiarificare meglio come i meccanismi di mercati sarebbero sopravvissuti alla loro crisi, e dall'altro invece si impegnava a concepire uno strumento non di mercato da affiancare al primo nel tentativo di raggiungere gli obiettivi ambiziosi dell'accordo di Parigi. Ebbene, la chiarezza sui meccanismi di mercato ancora non c'è, si aspetta per la COP26 di Glasgow, e la concezione di un meccanismo non di mercato non è ancora nemmeno stata posta in agenda. Quindi vedremo se, cioè, però quello è il punto decisivo, cioè, se si faranno passi avanti a Glasgow sarà rispetto all'articolo 6. E invece dall'altro lato più generale rilevo che in generale appunto il sistema di governo climatico è emerso in contemporanea con il passaggio di egemonia dal registro dell'adattamento ai danni del cambiamento climatico al registro della mitigazione e quindi alla riduzione delle emissioni, no? Si diceva l'ambizione della climate governance basata sulle conferenze delle parti, era quella di essere in grado di tagliare le emissioni e contemporaneamente mantenere ad un alto livello la performance economica. E mi pare che i presupposti siano tali da far presagire un ritorno alla centralità del registro dell'adattamento, in cui sostanzialmente si dice non occorre più creare una crescita verde, perché abbiamo visto che non siamo in grado di metterla in piedi, e cresciamo come siamo stati abituati, quindi, cioè, così, inquinando, emettendo, e però predisponiamo dei piani di emergenza validi, efficaci, che ci permettano di sopravvivere a quelli che sono i danni che inevitabilmente il cambiamento climatico produrrà. Quando nel 92 venne ideato il Summit della Terra, le tematiche ambientali non erano al centro dell'attenzione come lo sono diventate oggi. L'urgenza climatica ha costretto governi e amministrazioni locali a inserire il tema della sostenibilità come una delle priorità delle proprie agende politiche. Tuttavia, anche a livello locale, le amministrazioni stanno mettendo in pratica lo stesso meccanismo di compensazione. Non importa quanto si inquini o quanto si costruisca, importante è ammantare tali operazioni di una patina verde che la rende sostenibile agli occhi degli abitanti. A Milano l'amministrazione comunale ha puntato moltissimo sulla promozione di un'immagine di metropoli verde e vivibile, una retorica che ha attecchito molto rapidamente. La città infatti è ormai percepita come la più green e sostenibile di tutto il paese, non solo in Italia ma anche all'estero. Negli ultimi anni è stata scelta numerose volte da varie prestigiose testate giornalistiche internazionali come un modello da seguire, magnificando anche iniziative di puro greenwashing, come i 35 km di piste ciclabili inaugurate l'anno passato, un'inezia che non ha nessun impatto su milioni di auto che si riversano in città, e che però è valsa al comune la menzione sul Guardian di città green. Nonostante ciò, Milano rimane prima città in Lombardia per consumo di suolo, a sua volta prima regione in Italia per questo fenomeno. Per consumo di suolo intendiamo la progressiva trasformazione e antropizzazione di superfici agricole e naturali con opere, infrastrutture, manufatti, cemento sostanzialmente, e quindi di fatto il passaggio da una copertura non artificiale ad una copertura artificiale del suolo. A Milano il suolo già consumato si aggira attorno al 32% del totale, contro il 7,1% della media nazionale. Una tendenza che non accenna ad arrestarsi, visti i cantieri edilizi in costante aumento nel comune e nella cintura urbana. Alla luce di queste evidenze, la retorica verde su cui la giunta comunale e il sindaco Sala stanno puntando, anche in vista delle imminenti elezioni, svela tutta la sua fragilità. Non reali investimenti sulla vivibilità e la qualità degli spazi urbani, ma mere operazioni di greenwashing, un ambientalismo di facciata finalizzato a restituire un'immagine ingannevolmente positiva allo scopo di distogliere l'attenzione dalle reali attività costruttive e produttive. Il greenwashing invece è una strategia comunicativa, una modalità per costruire una finta immagine di se stessi, di taglio ambientalista ed ecologista, quando in realtà nei fatti processi o comportamenti vanno in tutt'altro senso. E quando parliamo appunto di Milano, crediamo che questi due fenomeni trovino proprio la sua piena realizzazione, a partire appunto dalla narrazione tossica che viene fatta su Milano proprio in tema di consumo di suolo dall'assessore all'urbanistica Maran, dove si confonde il verde appoggiato, il verde messo sopra opere realizzate, come il caso di City Life o Porta Nuova, con il verde spontaneo, con il suolo non impermeabilizzato, che è tutt'altra roba. Non si può paragonare City Life o il bosco di Porta Nuova, appunto, con il valore ambientale ed ecologico che può avere una pianta centenaria. E a Milano in questi anni sono tante le piante centenarie tagliate e sostituite da alberelli, poi spesso morti per la scarsa irrigazione. E qui si sta tutta anche la retorica legata all'operazione di Forestami, quindi piantiamo 3 milioni di alberi, nello stesso tempo però appunto consumiamo suolo, andiamo a fare l'operazione Scali, che vede appunto laddove ci sono binari e traversine sorgere volumetrie e spacciare questo come riduzione del consumo di suolo, quando in realtà se un'area vuota viene edificata si realizza proprio il contrario. Succede lo stesso a Piazza d'Armi, quindi un'area di verde spontaneo che verrà in gran parte modificata dal piano di governo del territorio, idendicasi per la Goccia in Bovisa o per le tante aree da Baia Monte al Parco Bassini, al Parco di Via Cividale, che sono sotto l'attenzione di questa giunta nel tentativo di addomesticare il verde spontaneo. Verde spontaneo che era presente anche dentro gli scali. Ecco quindi perché diciamo che l'operazione Forestami non va a compensare le tante alberature di pregio, a prescindere dalla specie, che sono state in questi anni sacrificate in nome di progetti di trasformazione, di riqualificazione o di rigenerazione urbana, parole dove spesso, dietro cui spesso si nasconde in realtà una privatizzazione del suolo pubblico, una privatizzazione dello spazio pubblico e di fatto si genera un fenomeno che va ad aumentare appunto la pressione edificativa e quindi il consumo di suolo. La scelta di Milano come luogo adatto ad ospitare la Pre-COP ha contribuito a rivivificare questa retorica green. Tuttavia, in concomitanza con il grande evento, alcuni collettivi e reti di attivisti ed attiviste ambientali hanno organizzato un climate camp in città che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre. Il programma prevede un fitto calendario davvero troppo lungo da sintetizzare. Importanti sicuramente i momenti assembleari di apertura e chiusura del campeggio, in cui capire come stare insieme, cosa aspettarsi e cosa possiamo portarci a casa dalla chiusura delle giornate trascorse assieme. Molto importante sarà la giornata del 2 ottobre, in cui alle 15 c'è l'appuntamento della Climate March in piazza Cairoli per un corteo diretto al MICO, il luogo dove saranno in corso i lavori della Pre-COP. Durante le altre giornate non mancheranno interventi e incontri sia all'interno del campeggio che in altri luoghi simbolici della città, oggetto di consumo di suolo, per mantenere vivo il legame tra crisi climatica globale e la necessità di soluzioni concrete sul territorio. Le tematiche degli incontri spazieranno dal legame tra crisi climatica e lavoro, al land grabbing, estrattivismo e crescita illimitata, fino ad arrivare a momenti di formazione e crescita personale, ad esempio sul tema della non violenza. Per noi, le COP sono uno strumento del sistema per il sistema, con le quali si cerca di assorbire i danni del modello estrattivista a crescita illimitata, interiorizzando il problema e fingendo di risolverlo assumendo impegni vaghi e finora mai risolutivi. Per questo motivo, riteniamo che pretendere e costruire uno spazio di discussione alternativo in cui far sentire la voce di attiviste e attivisti climatici sia necessario. Questo campeggio di azione climatica ci consente di stare insieme, confrontandoci sui temi della giustizia climatica, della transizione ecologica e della responsabilità del mondo produttivo, all'interno di un contesto intersezionale e auto-organizzato che ben rappresenta la struttura organizzativa orizzontale e inclusiva che vorremmo vedere nelle relazioni della società. Per avere informazioni sul programma e gli appuntamenti del Climate Camp, trovate i link nella descrizione del podcast. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche, puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao!